quindi sono sospese le lezioni dalle 9 alle 13, quindi Io è vendo sospesa questa lezione, però quella dedicata al Mallarmé dalle 13 alle 14, quella sul Proverbio è sospesa. E quindi riprenderemo con i ragazzi di Proverbio. Allora, vi ricordate che l'altro giorno abbiamo considerato un bellissimo passo della corrispondenza proverbiana, perché dietro lei, ecco, in esame all'università si fa non soltanto facendo i testi, naturalmente. Lei è in atteggiamento di chi non prende appunti, in modo deliberato. No, lei è un osservatore libero, è un libero. Ascolta semplicemente. Abbiamo parlato del quesito che si pone a un certo punto a Flaubert su che cosa vogliono veramente le donne. Ecco. E la risposta che dà in questa bellissima lettera è che le donne vogliono, con la maiuscola, l'eterno sposo. L'eterno sposo. E fa delle precisazioni in questo passo bellissimo su che cosa è l'eterno sposo. L'eterno sposo è l'uomo unico, è l'uomo divino, e se non lo ottengono sono infelici, perché le chiacchiere, come dicevamo l'altra volta citando, mi pare Mina, stavamo citando Mina, no? le chiacchiere, o citando naturalmente di Mina, cioè, Shakespeare, no? Parole, le chiacchiere non servono, le donne vogliono qualcosa di concreto, e questo qualcosa di concreto può essere il marito, può essere un amante, può essere un bambino, può essere un figlio, no? E c'è quindi un'idea abbastanza topica, questo, che gli uomini sono astratti, e anche qualcosa di vero, cioè, sono astratti e distratti, e dedichi semplicemente alla ricerca del piacere sessuale, mentre la donna è concreta, la donna è la casa. C'è del vero in tutto questo? Sì, c'è certamente del vero. Certamente del vero, anche c'è qualcosa di un po' schematico, ma è un luogo comune degli stolti il pensare che le schematizzazioni siano sempre sbagliate in se stesse. Vorrei suggerirvi questo pensiero sottile. Le schematizzazioni servono per orientarci, capite? Il pensiero è fatto di schematizzazioni, la vita del pensiero, anche per poter orientarci. Noi, per esempio, siamo in questo momento in una zona di Roma per cui abbiamo bisogno di un orientamento complessivo. Dove siamo? Siamo a Roma Nord o a Roma Sud, secondo lei? Siamo a Roma Sud, è importante saperlo, no? Cioè, io devo sapere che è più vicina qui la via Prenestina o la via Cassia, secondo voi? Qui, è qui. Più vicina? Prenestina, di qui, santo di Dio. La vostra pratica di macchine raccolgono l'anno, sapere. Allora, il fatto che Flaubert poi abbia delle idee un po' tagliate con l'accetta da questo punto di vista non deve stupirci, anzi deve indurci al pensiero. Qual è la sua idea fondamentale? La sua idea è che esistono, che le donne, la loro concretezza, però hanno un qualcosa, anzi parliamo di questo argomento proprio oggi che è l'8 di marzo, insomma. Le donne, la loro concretezza, però hanno una strana sbadataggine, nel senso che cercano l'assoluto, quindi da una parte sono concrete e dall'altra parte cercano l'assoluto, e lui dice che cercano delle cose che è impossibile avere, come uno che chiedesse delle arance al mele. Questo cercare l'assoluto è però un elemento, e questa concretezza, diciamo questa discrasia tra la concretezza e il cercare l'assoluto, è l'elemento di fascino maggiore della donna. chi è concreto deve sapere che l'assoluto non esiste. È chiaro il concetto? Quindi c'è una sorta di schizofrenia da questo punto di vista, nell'essere concreto, nel volere cose concrete, per cui il mazzo di rose, quando l'amante abbia tradito la donna per cercare di farsi perdonare, a meno che la donna non sia un imbecille, non basta, no? Il mazzo di rose o qualunque altra simbologia di questo genere qua. D'altra parte cercano l'assoluto. L'idea che lui matura della donna è questa. Vi sono donne di due tipi, ma questa non è che la matura in assoluto, la matura per se stesso. Vi sono donne spirito e donne di carne. Donne di spirito e donne di carne. Lui non si esprime esattamente in questi termini, e sono termini abbastanza sconcertanti, direi, per dire anche oltraggiosi, insomma, no? Perché una donna di spirito è umiliata se le si viene tolta la parte carnale, e viceversa, una donna di carne rivendica per sé un'autonomia di spirito. Ma lui nella sua vita ha avuto queste esperienze così diverse. Da una parte la donna di carne, costituita eminentemente, la donna da letto, insomma, no? Una volta avevo trovato anche un'espressione che però adesso non riporto, perché mi pare un po' forte, insomma. La donna di carne fu per lui Louis Collet, furono le prostitute, furono le donne, non solo le prezzolate, ma fu la governante che stava in casa, con cui aveva rapporti episodici, insomma. E poi c'è la donna di spirito, che fu Elisa Schlesinger, quella di cui abbiamo parlato, che ha incontrato sulla spiaggia e che è stato sempre l'obiettivo dei suoi sogni. Questa dicotomia, donna di spirito e donna di carne, è una dicotomia molto adolescenziale. Un maschio normalmente attraversa, non tutti, insomma, molto spesso, una certa fase della preadolescenza. Adesso poi la preadolescenza non so quanto si sia spostata indietro, insomma, ma sostanzialmente i termini sono quelli, in cui c'è una donna che vagheggia e che normalmente ricalca certi ideali della figura sua materna, e poi ci sono le ragazze con cui invece avere rapporti più liberi. Freud, in un saggio molto interessante che vi consiglierei di leggere, perché Freud era il genio che era, naturalmente, molto invecchiato, ma nella sua straordinaria e infinita genialità ci sono delle cose che mantengono una loro, a mio modo di vedere, insomma, straordinaria validità. In un saggio, mi pare del 1912 o 13, che si intitola Sulla universale degradazione della vita amorosa, dice che l'uomo diventa impotente quando la donna di spirito, usando questa immagine che abbiamo usato, cioè la donna che è ricalcata sull'ideale materno, diventa per lui troppo importante. E allora non riuscirà ad avere contatti sessuali con una donna, perché avrà sempre in mente di violare la figura materna, no? Avrà sempre in mente di violare la figura materna, avrà un atteggiamento pavido, come di chi si trova di fronte al tabù dell'incesto e vuole appunto violarlo. Quest'idea, dice lui, induce a pensare che bisogna sapere degradare la donna, cioè ridurla alla sua realtà di carne. Il discorso suona abbastanza sconvolgente, e nel 2010, con una sua violenta rozzezza, come spesso nelle formulazioni, come in certe formulazioni di Freud, ma anche di una grandissima verità. In realtà è questo il senso, cioè una persona deve essere restituita alla sua integrità, senza che la spiritualità o la carne vengano troppo l'una o l'altra accentuate. Questo Flaubert non volle fare, non poté fare. Rimase Elisa Schlesinger il modello della donna di spirito, per così dire, e poi c'erano le altre donne, tra cui Louise mascoli, donne per così dire, di carne, che hanno il concetto si tratta in realtà, questo non è banalmente, si tratta di cose molto semplici. Se non che le cose non sono così semplici come avevo appena detto, perché se uno guarda l'educazione sentimentale in cui domina la donna di spirito, cioè Madame Arnoux, c'è qualcuno di voi per caso che conosce già l'educazione sentimentale? Nessuno? Beh, allora sarà tanto più piacevole di vedere. E vediamo che questa donna così di spirito, tra virgolette, in realtà ha una sua carnalità pesante. Quindi la schematizzazione è più in certe sottili tensioni dello scrittore che poi nella pratica che viene fuori dall'elaborazione del personaggio. Ecco, per cui coloro che dicono Madame Arnoux è l'esempio della donna di spirito, eccetera, eccetera, e non sono lettori, a mio modo di vedere, sufficientemente scaltriti, perché lui ha voluto far credere questo, ma è ben chiaro che Madame Arnoux ha una sua carnalità. Spero che abbiate con voi l'inizio dell'educazione sentimentale. L'avete, no? Benissimo. Per la donna si crea questa divinità da una parte e dall'altra parte questa carnalità. E l'uomo? Qual è la divinità dell'uomo? Qui la risposta è tranciabile, semplice. L'uomo non è divino. Gli uomini di Flaubert sono tutte figure con qualche eccezione tutto sommato insignificante, sono tutte figure mediocri. E questo è molto interessante. Se noi prendiamo Madame Bovary, Charles Bovary è evidentemente una figura bassa, uno stupido, con cambiamenti che avvengono verso la fine del romanzo, di cui vi parlerò fra un attimo. Gli amanti di Emma sono Léon e Rodolphe. Rodolphe è un Ganimede, come una volta si usava dire, da strapazzo, un seduttore a strada, un signorotto arrogante. Léon è uno studentello fichetto, tutto sommato vigliacco, cerebrale vigliacco che si nutre di sentimentalismi. Altri uomini, ma possiamo trovarne tantissimi altri, non è inutile dire quanto il farmacista Homais sia bieco in Madame Bovary, ma veniamo al personaggio di Frédéric Moreau, cioè il protagonista del libro che noi leggiamo. Il personaggio di Frédéric Moreau, che è lui, Flaubert, è il mediocre. Perché è un mediocre? Per una cosa che su cui torneremo tra un momento, ma che adesso anticipiamo. Perché è uno che non sa volere. Perché soffre della grande malattia dei suoi tempi, l'inattività, la mancanza reale, effettiva, di senso del valore, al di là dei suoi sogni, delle sue fantasticherie. Soffre di abulia. E in questo libro di straordinaria densità, che è l'Educazione sentimentale, noi vediamo che il fallimento di Frédéric con questa donna che ama, ma con cui non conclude mai nulla, non è tanto e non è solo un incidente, una iattura. È qualcosa che ha voluto lui, nel senso che non ha saputo, voluto amare questa donna come diceva di amare. E da questo punto di vista Frédéric Moreau è il primo grande eroe della letteratura mondiale moderna. Moderno, che parola del latino antico, moderno, viene da modo, che è avverbio che significa adesso, ora, ora, no? Il moderno è caratterizzato dall'ora, dall'adesso. Quindi il moderno è nemico dell'assoluto. Il moderno accetta solo, come avrebbe detto Baudelaire, ciò che è transitorio, fuggitivo e contingente. Sono parole che probabilmente conoscete nella definizione che dà Baudelaire, che comunque sono bellissime. Che cos'è il moderno? Il moderno è ciò che è transitorio. Transitorio, cioè che passa. Fuggitivo, una cosa di più, non solo che passa, ma che fugge. Contingente, cioè che c'è, ma può anche non esserci. Questa è la differenza tra contingente e necessario. Il necessario è ciò che è e non può non esserci. Invece noi siamo in uno stato di contingenza. Noi siamo uomini moderni, no? E noi sentiamo questa modernità, questa precarietà. Faccio un inciso, una parentesi. Voi sapete che la Chiesa Cattolica è stata ovviamente avversaria di tutto il XX secolo, soprattutto del comunismo, per alcuni motivi molto semplici. Il primo motivo è che il comunismo, il marxismo, quindi il comunismo che lo realizzava, era ateo, materialista e ateo, e basterebbe questo. Il comunismo è scomparso e è l'ultimo a credere nella sua sconfinata malafede al comunismo, è un tizio che voi ben conoscete, insomma. E quindi la Chiesa Cattolica, che ha una lunga sapienza, anche se diretta in modo che alcuni definirebbero a dir poco discutibile, non ha più come avversario il comunismo. Che cosa ha come avversario? Quello contro cui il Papa spara quando può, tutti i momenti. L'avversario è la modernità. Quello che il Papa dice è il relativismo. Cioè questo non aver valori, questo ritenere che tutto sia relativo, questo essere angosciosamente legati al senso della nostra transitorietà. Tutto questo è pericoloso per un'ideologia come quella cattolica, che invece crede fortissimamente al senso del valore. Frédéric Moreau, questo giovanotto che ci si schiude in questa storia con un ragazzo di 18 anni all'inizio, è come il portatore di questo sconforto profondo. Il libro è velenoso. La Chiesa Cattolica che mise all'indice Madame Bovary, all'indice dei libri proibiti che c'era una volta, riteneva però l'educazione sentimentale un libro pericolosissimo, perché insinua un senso di disfattismo o di nichilismo, come si direbbe quest'oggi. Torniamo all'uomo. La donna, dicevamo, una donna di spirito e una donna di carne, la donna di spirito può essere divina, l'uomo è comunque mai divino. Qual è l'unica forma di riscatto che può conoscere l'uomo? E da questo punto di vista anche la donna. E quindi possiamo dire qual è l'unica forma di riscatto che può conoscere l'essere umano. Quando diventa, questa formulazione l'avevo inventata con queste lettere maiuscole, quando diventa la grande vittima, quando diventa una grande vittima, allora l'essere umano si riscatta. Se diventano grandi vittime, possono, per così dire, salvarsi agli occhi dell'osservatore, dello spettatore, del lettore. Si redimono. Come si fa a diventare grande? direi portando, assumendo su di sé come Cristo in croce, come Cristo che porta la croce, il peso della propria infelicità. In questa prospettiva di grande vittima si riscatta. Non solo, ma il lettore, se vede la loro qualità di grandi vittime, e può, per una sorta di catarsi aristotelica, cioè di immedesimazione e purificazione, trarre una purificazione. Facciamo esempi dell'essere umano diventato grande vittima. Emma Bovary è una peccatrice. È una donna che ha tradito il marito, ha tradito l'onore della famiglia, perché ha dissipato il patrimonio. Tutto questo ha un valore direi universale, ha pensato quanto poteva averlo nell'Ottocento. Agli occhi di un borghese per cui il danaro era essenziale, come Flaubert, no? Dissipare i beni della famiglia per fare regali ai suoi amanti. Cosa della lapidazione. Però Madame Bovary è una vittima in questo senso. Più volte ho detto gli altri corsi, naturalmente, su Flaubert, perché è indicata spesso come Madame Bovary, a me gli occhi su questa piccola sottigliezza. Ecco, perché lei si chiama Emma Bovary, eh? Ma perché Flaubert dice sempre Madame Bovary? Perché il titolo è questo? Perché Madame vuol dire signora, come in italiano, sposata, una donna sposata. E lei è intrinsecamente una donna sposata. Capite? Notate un po' la differenza tra i grandi libri della letteratura, perché queste cose generali dovete saperle, fra, per esempio, un libro come quello di Tolstoi. Qual è l'altro grande libro di Tolstoi che vi nominavo su una donna? Anna Karenina, si dice forse. Anna Karenina. Ma si dice Anna Karenina. Perché? Per un motivo, direi, innanzitutto. Perché il vero problema è quello della società in cui si trova Anna Karenina, che lei, in cui lei si trova a commettere il suo adulterio. Mentre qui invece, si potrebbe dire, il libro è completamente polarizzato sulla figura di lei, la signora Bovary, la donna sposata che rovina, eccetera, eccetera. Questa donna sposata era stata una ragazza, anzi è una ragazza quando comincia la storia. E che educazione aveva avuto? Aveva avuto un'educazione, ecco la parola che torna, sentimentale. Libri d'amore erano stati ammanniti dalla sua curiosità, dalla cultura dei tempi. Lei leggeva questi libri d'amore e perché erano il suo modo di sentirsi esistere. Non c'erano allora, e non ci sono stati, non c'era allora la televisione, non c'era la comunicazione culturale, le donne erano solitarie, chi si sposava era un destino di solitudine all'interno della famiglia, con il marito che lavorava, i figli cui badare, il menage cui badare, eccetera, e l'amore. Che fine faceva? Allora i libri diventavano fondamentali per poter sognare, perché poi l'essere umano è quello, dal tempo di Socrate e Platone al tempo attuale, le donne e gli uomini sono da questo punto di vista gli stessi, si innamorano e soffrono allo stesso modo. Quindi comincia a essere vittima perché viene avvelenata con queste letture sentimentali. Poi lei crede al matrimonio, perché dice forse con il matrimonio le cose andranno meglio, ma le cose vanno peggio perché il marito è deludente. E quando uno è innamorato, adesso vi dico una cosa su cui forse non so se meditate sufficientemente, quando uno è innamorato, e se è riamato naturalmente, se no diventano guai, sta bene. È contento. Se uno dovesse potesse usare l'aggettivo più preciso per indicare il sentimento che ha innamorato è contentus, è sazio, perché afferta di essere capito, compreso, che la sua vita sta assumendo una buona piega, che si sta sistemando psicologicamente, che quando si sveglia al mattino può pensare a qualcuno da cui è pensato. Pensate cosa vuol dire la delusione allora a seguito di un matrimonio infelice. E allora lei cerca gli amanti, ma non li cerca, e questo è il punto interessante, non li cerca per un gusto meno di sensualità, di distrazione, li cerca perché cerca, e questa è la conferma del discorso che si stava facendo prima, perché cerca l'eterno sposo, cerca l'assoluto, e quando trova il primo, e poi il secondo, e poi torna il primo, lei, direi che il tema del piacere è molto meno importante per la Bovary che il tema della felicità. Lei vuole essere felice. Lei vuole essere felice. Quindi è rovinata dalla sua educazione, dal marito, dagli amanti, dalla vita. E il suo suicidio sta proprio a sancire questo senso di fallimento. Il marito, Charles, è un bravo uomo, ma si presenta come grande vittima quando non trova altro che durezza da parte della moglie. Agli inizi, dovete sapere, le cose non erano così. In questo mirabile libro che è la Bovary, che introduce l'educazione sentimentale, quando lei lo aspettava sul balcone e lui andava via al mattino, al lavoro, sul cavallo, era un dottore, era un ufficiale sanitario, lei faceva una cosa bellissima, e dovete sapere che la vita amorosa è fatta eminentemente di queste cose qui, è fatta di letto, di sesso, di scolare, eccetera, senza dubbio, è fatta di queste cose qui. Sapete cosa faceva? Lei prendeva dei pezzettini di foglioline, le sbriciolava e poi le soffiava verso di lui come segno amoroso. L'amore vero è fatto di bigliettini. Al tempo d'oggi è fatto di SMS, possibilmente non quelli predefiniti. Non quelli predefiniti, ma quelli, insomma, inventati. Insomma. È fatta di una carezza sui capelli. Una carezza sui capelli vale oro, vale platino. Perché uno crede che sia solo una carezza sui capelli che dura un decimo di secondo, ma uno se la può ricordare a distanza di 30 anni dopo che la persona è morta. Tutte cose che valgono tantissimo. Ebbene, Charles Bovary fu deluso, perché da un certo momento in poi, dopo le prime illusioni di tenerezza da parte di lei, non ebbe più nulla, e alla fine scopre, orribile dictu, auditunque, che l'ha tradita. E lui ancora non vuole rassegnarsi al tradimento, dice che si è sbagliato, ma alla fine c'è la prova incontrovertibile del tradimento. E a quel punto lui fa quello che tutti i grandi amanti fanno, quelli che ci riescono, cioè dicono: che mi importa che non mi abbia amato? Io lo... E questa è la comprensione vera dell'amore. C'è un film molto bello di 20-30 anni fa, che non so se avete avuto qualcuno di voi occasione di vedere alla televisione, russo, che si chiama Oci Chornie. Se mai qualcuno l'ha visto? No. Quando io, come dire, palpo la consistenza della vostra giovinezza, sono sempre effluito in qualche modo. Comunque, questo film interpretato da Marcello Mastroianni, sapete almeno cazzo chi è Mastroianni? Cosa di impiccante. Interpretato mirabilmente da Mastroianni, a un certo punto c'è il personaggio di un uomo anziano, insomma, relativamente, che ha sposato una donna bellissima, capisce il mondo circostante. E a un certo punto dice, io gli avevo chiesto, questa è una bella citazione da fare, dice, io sono qua in viaggio di nozze, dice Mastroianni, Mastroianni fa il cameriere in una barca, in un battello, una vita strambata che fa, e ha amato una donna, e non sa quello che la donna che lui ha amato adesso è lì, su quella barca, ed è la moglie di lui. E lui, questo anziano, aveva sempre amato questa donna e lei gli aveva detto sempre di no. E lui gli aveva chiesto di sposarla e lei aveva detto no, io non vi amo. E lui aveva riprovato, sei alla settima volta, lui aveva avuto da lei il sì, ma lei aveva aggiunto, io vi sposo, ma non vi amo. E lui aveva accettato la sfida. E in questo film meraviglioso, con alcune cose assolutamente meravigliose che vi consiglio di scaricare, di vedere, di fare quello che volete per vedere, e in questo film allora lui dice, credete che io sia infelice in questo matrimonio che è cominciato da qualche mese? Io sono il più felice degli esseri umani. Perché lei non mi vuole, ma io la voglio, io l'amo. Quindi la gloria di Charles è di dire alla fine del romanzo, di dire, ma io l'amo, e questo non me lo può togliere nessuno. Il fatto che io l'amo non me lo può togliere nessuno. Charles è diventato una grande vita. C'è un'altra figura, per esempio, in Flaubert, una cosa che è opportunissimo citare perché è una novella che vi raccomanderei caldissimamente di leggere, perché rappresenta una delle tre perle di Flaubert. Una è la Bovary, l'altra è l'Education sentimentale, forse il capolavoro, e questa novella raccomanderei fortemente di leggerla per la vostra cultura, perché è questo la posta in gioco. Si intitola Un cœur simple. La conoscete qualcuno di voi? Chi la conosce? Nessuno, ci sono voci prevenute. Un cœur simple, un cuore semplice, è la storia di una domestica che venne tradita quando era ragazza. E come molte donne sedotte e abbandonate, e poi si trovò a fare a quell'epoca, povere, a fare la serva. E lo fece, la serva di una certa signora, permessa, lo fece con uno scrupolo, uno zelo, una dedizione, direi un affettuoso amore a questa famiglia che l'aveva accolta e ai due figli. E a un certo momento scopre di avere un nipote. Quindi questo nipote diventa questo giovane, diventa per lei, che fa il marinaio, diventa per lei l'unico senso della sua vita. Gli lava le cose, fa tutto quello, gli dà da mangiare, lo accoglie, lo cura. No, tutti abbiamo bisogno del nostro bambolotto nella vita, a qualunque età, del nostro sacchiotto. C'era un bel film, a proposito, bel film, non bello tutto, ma con delle cose interessanti, che si chiama Castaway, l'avete visto? Oh, Castaway. Quando a un certo punto questo tizio viene il protagonista, che era Tom Hanks, viene sbattuto nell'oceano, eccetera, e si trova un compagno che è un pupazzo. E quando questo pupazzo viene sbattuto in alto mare, lo perde, lui è disperato, quello è un momento di altissima poesia. Ai nostri pupazzi noi siamo legati, noi rendiamo i nostri amati dei pupazzi a cui siamo legati. E se ne vanno via, non solo se ne vanno via loro, ma portano via l'anima proprio a noi stessi, no? E uno scopre quanto è legato proprio ai momenti, come sapete, dell'abbandono. Ebbene, questo nipote è tutto per Félicité. Félicité è un nome, naturalmente, no? Felicità. Ma fate caso che in francese Félicité vuol dire, come in inglese, bliss, beatitudine, più o meno. No? Mentre per dire felicità, come si dice? Per qualcuno è contento, come si dice in francese? Bonheur, quindi Félicité. Una persona deve essere felice, pensate che cosa. Poi, è stato. Il nipote muore. Lei si occupa dei figli, ma un figlio, la figlia muore, la bambina muore. Allora si occupa dell'altro figlio, del ragazzino, il quale però non va da lei e se ne va via. Lei rimane sola, in casa con la padrona. La padrona ha avuto in regalo un pappagallo. E allora per lei questo oggetto, come si potrebbe dire, transizionale, direbbe uno psicanalista, la Winnicott, no? Questo oggetto d'affetto diventa il pappagallo, il nipote diventa il pappagallo. Ma uno deve amare qualcosa, uno deve amare qualcuno. Tutte le vecchie che ci sono in giro per Roma, con i cagnolini che portano a spasso, ma cosa credete che portino? Portano la loro anima a spasso, che parlano con il cagnolino, no? Ne avete viste, eh? Ma solo che la differenza con voi, che avete il cagnolino, è che voi siete agli inizi della vita, ma quando uno invece è arrivato alla fine della vita e ha il cagnolino, i cani, maschi o femmine, la stessa cosa, è perché diventa l'unica cosa. Allora dal nipote si è passati al pappagallo. Il pappagallo alla fine muore. I pappagalli muoiono. E anzi potremmo dire, dato che avete assorbito, vi pare, questo discorso, scrivetevi questa frase del professor Quaranto a capo del letto, e poi leggete questa frase in tutta la sua pregnanza. Avete capito? La frase è questa qui. Ci siamo? Tutti i pappagalli muoiono. È una frase meravigliosa. Potrei anche chiedervi un sovrapprezzo per questa lezione, quantificabile anche in 50 centesimi, se li mettiamo insieme vi faccio un pranzetto. Tutti i pappagalli muoiono, tutte le cose a cui siamo affezionati, e rimane impagliato alla fine. Allora lei che cosa fa? Lei a un certo momento, quando anche lei muore, vede come in alto sopra di lei il pappagallo che è diventato in una sorta di delirio, è diventato lo Spirito Santo. Io trovo assolutamente fantastico questo, cioè il pappagallo che amava come unica cosa che le era rimasta è diventato il simbolo dello Spirito Santo. Così una povera donna ignorante può concepire il divino, l'oggetto d'amore suo assoluto, che era appunto il pappagallo. Bene, anche Félicité è una figura, è una grande vittima. Charles Bovary, Emma Bovary, Félicité sono grandi vittime. Questo tema della grande vittima ha una sua sicura efficacia estetica. Nel senso che quando noi vediamo una vittima al cinema, noi piangiamo. Io ho visto cuori duri, persone ciniche che di fronte al destino di vittima, no? Che qualcuno ha nei film, piangevano. Forse ricorderete il film Titanic, qualcuno l'avrà veduto. L'avrà veduto. Allora io vidi questo film quando uscì. Il film è fatto molto bene tecnicamente, ma naturalmente è lontano dalle glorie dell'arte, diciamo così. È un film amabile, è così. Uscì dal cinema e dopo un po' ero, devo dire, nel chiuso dell'istituzione familiare che mi proteggeva e mi custodiva nelle mie eventuali debolezze, scoppiai a piangere. Ero stravolto. La musica di quel film celeberrima, tormentosa e celeberrima, ve lo ricorderete, insomma, mi struggeva. In realtà l'unica cosa che mi seccava di quel film è che il giovanottino il sembrasse così orrendamente un fichetto e un coglione. Ma insomma, però tutto questo veniva assorbito nel festino di dolore che avevano tutti, questo, la vecchia che era sopravvissuta così, e tutti e due che morì, e lui che muove per primo. Io naturalmente, come ogni spettatore, mi ero identificato in lui che moriva, me bimbo mi vedevo, intirizzito nell'acqua gelida, no, con lei che lo chiama, eccetera. E fettacci. Ebbene, l'arte è fatta di effettacci. Ma come? Anche la pietà di Michelangelo? Anche la pietà di Michelangelo. Ci vediamo venerdì.